Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jimes di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Kate continuò a raccontare. Il viaggio di nozze in Francia con Jules e sua madre si risolse in una serie di situazioni impossibili. Jules subiva l'influenza della madre che offriva loro quel viaggio stupidamente sontuoso. Kate si mangiava le mani per essersi legata a gente di quella razza. Si ritenne oltraggiata. Delitto di lesa maestà, diceva Jules. Quel che venne poi, la vita in riva al piccolo lago in Prussia, lontano dalla famiglia, ebbe luci ed ombre. Ci fu l'attesa del primo figlio. Jules aveva mandato a Jim una fotografia di Kate a quell'epoca. Lei aveva una faccia da leonessa corrucciata. La nascita della bambina di cui Jim avrebbe dovuto essere il padrino fu difficile perché i suoi genitori non erano in stato di grazia. Scoppiò la guerra, partenza di Jules sul fronte orientale. Lui aveva tempo di scriverle. Da lontano lei lo amò di più e gli ricostruì un'aureola. L'ultimo malinteso, la vera rottura, risalivano alla licenza che lui ebbe dopo 2 anni di guerra. A Kate sembrò di essere fra le braccia di un estraneo. Lui ripartì. La seconda bambina nacque facilmente. «Non assomiglia a Jules», disse Jim. «Pensate pure quel che volete», disse Kate. «Anche lei è sua. Ma gli ho detto, ti ho dato 2 figlie, per me basta, questo capitolo è chiuso. Camere separate e mi riprendo la mia libertà». «C'era lì il vostro giovane amico Fortunio, libero come l'aria, anch'io ero libera. Ma è stato un piacevole compagno. Che bella vacanza ci siamo presi. Ma era troppo giovane, non era una cosa seria. Ero assetata di lavoro duro ed esigente, in mezzo alla natura. Mi feci assumere in una tenuta agricola del nord. Cominciai dal basso, lavorai con le ragazze della fattoria. La notte l'acqua gelava nel catino, imparai a occuparmi della terra, del bestiame. Era una bella vita. Notai il padrone, un uomo nel pieno delle forze, temuto da tutti. E lui notò me. E la mia vita cambiò. Mi portava con sé a cacciare il cinghiale. Io imparavo da lui a imprecare contro i servi poltroni. Continuavo a lavorare, ma da più in alto. Anche questa era una bella vita. Forse avrei potuto continuare così. Ma un bel giorno tutta quella materia mi soffocò. Mi mancarono, con mia grande sorpresa, l'indulgenza, la disponibilità di Jules. E le mie figlie mi attrassero come una calamita. Non era quella la mia strada, me ne andai. Sono tornata qui soltanto da 3 mesi. Jules come marito non esiste più per me. Non crucciatevi per lui, gli accordo ancora delle distrazioni che gli bastano. Che altro? C'è Albert, non lontano da qui. Mi ha parlato di quella statua greca che tutti e 3 avete amato. Ho flirtato con lui. Ha dei lati curiosi, ma quell'autorità naturale che manca a Fortunio e a Jules. Vuole che pianti tutto e che lo sposi. Con la madre sarebbe disposto a prendersi anche le figlie. Ho per lui una grande amicizia, ma niente di più, finora. Vedrò. Mi avete ascoltata bene. Ho parlato più di voi e dell'alba. Non ho la pretesa di aver detto tutto, ma neanche voi prima avete detto tutto. Ho avuto altri amanti. Sono affari miei. Ho parlato solo delle cose di cui avete parlato voi. Torniamo a casa. Erano ormai vicini alla villa. Kate non doveva andar via. In che misura Jim avrebbe agito per Jules? In che misura per se stesso? Non lo avrebbe saputo mai. Ritardava il momento. Quando furono all'altezza dell'ultimo albero del boschetto che li separava ancora dalla casa, a 20 passi da Jules addormentato, Jim posò le mani sulle spalle di Kate e accostò un po' il viso a quello di lei. Si guardarono. Che sarebbe accaduto? Trascorse un lungo attimo. Bruscamente anche Kate si accostò a lui, lasciando che una sua guancia e il suo labbro superiore sfiorassero appena le labbra di Jim. Lui ne sentì l'incredibile dolcezza. Le mani di Jim si scostarono e Kate corse verso casa. Albert, il falò. Albert doveva andare a pranzo da loro il giorno seguente. Jim raccontò a Jules tutta la passeggiata, incluso l'ultimo gesto. Jules ascoltò e non disse niente. Come lo spettatore di una partita di biliardo seguiva i movimenti delle bocce. Pure Jim sentì che parteggiava per lui contro Albert. Albert fu corretto e come al solito. Kate si divertì a prendere in giro ora l'uno ora l'altro dei tre uomini, rivolgendo ad ognuno complimenti fintamente ingenui. Nessuno di loro le rispose. Il sorriso di lei teneva le redini di quel tiro a tre cui si erano volontariamente attaccati. Kate, perfettamente a suo agio, diresse la conversazione non senza prepotenza. Fu lei questa volta a parlare troppo. Diversa con ciascuno dei tre, non poteva recitar bene per tutti e tre insieme. Pazienza. Si accorse del mezzo fiasco, se la prese con loro, continuò a darci dentro. Accese lei stessa fra le labbra tre grossi sigari. Questa parve loro una mancanza di tatto e una promiscuità. Jim ebbe voglia di buttare via il suo sigaro e andarsene. Rimase, per disamorarsi. Kate infilò gli stivali e prese un frustino, come per mostrare al pubblico le sue bestie ammaestrate. Le bestie erano loro. Lei li mostrava a se stessi. Jim pensò, un gallo in mezzo alle galline è ridicolo. Ma una gallina in mezzo a tre galli non è meno ridicola, a meno che i galli non si battano a morte per lei. Forse è questo che Kate si aspetta. Fecero tutti e quattro una lunga passeggiata attraverso la campagna che distese un po' gli umori. Arrivarono a un accampamento di saltimbanchi che portavano in giro un circo di paese. In uno dei carri erano stipati sette bambini, da 1 a 12 anni, sani e allegri come i loro genitori. «Questa è la vera ricchezza, la vera felicità», disse Kate commossa. Diede loro tutte le chicche e i soldi che aveva in borsa. Jim fu riconquistato. Lei divideva equamente fra i tre uomini la sua benevola attenzione. Per Albert, l'occasione fu una collezione di pietre esposte in una vetrina. Anche loro ne avevano fatta una a scuola e citavano nomi bizzarri. Jim fu geloso. Assistettero allo spettacolo del circo. Davanti a quei clown e a quegli acrobati piccolissimi, Kate ritrovò lo stupore della sua infanzia. Quando Albert se ne fu andato, si parlò di lui. Jules, euforico, chiese a Kate come l'avesse sedotto. Kate raccontò, caricando le tinte, tutto quel che gli aveva detto, quasi in buona fede, sulla sua infelice vita familiare. Jules, Jim e Mathilde ridevano fino alle lacrime. Per il momento, il pericolo di una partenza con Albert sembrava scongiurato. Non però quello di un'avventura. La casa intera parteggiava per Jim. «Già», disse Jules a Jim, «ma Kate non rinuncia mai a quel che una volta è stato suo». Jim, curioso, fece garbatamente notare loro che c'erano delle divergenze fra il racconto di Kate e quello di Jules e chiese di capire meglio. Stabilirono così di fare una grande passeggiata a tre, durante la quale Kate e Jules avrebbero raccontato a turno. Dopo una gara di capriole sull'erba con le bambine, si avviarono verso una locanda di campagna a 2 leghe di distanza. Jules, su richiesta di Kate, parlò per primo. Descrisse loro, col suo solito humor e la sua modestia, il modo in cui si era innamorato di Kate, facendoli ridere. All'inizio tutto andò bene e Jim si preparava ad assistere a una bella sfida tra quei due eccellenti narratori. Ma nacque una tensione quando Jules arrivò al loro matrimonio, alla sua famiglia, e parlò del tuffo nella Senna in un modo che Kate e Jim sapevano inesatto, come se si fosse trattato di un colpo di testa di Kate e non di una rappresaglia a cui lui stesso l'aveva costretta. Quando poi raccontò del loro viaggio in Francia con la madre di Jules, Kate si indignò, l'interruppe, si arrabbiò. L'accordo era che questa messa a confronto di ricordi sarebbe stata serena, ma Kate riviveva le offese subite. Certo, sul momento non aveva battuto ciglio e Jules aveva potuto crederla soddisfatta, ma il debito si accumulava e ancora adesso Jules non aveva capito proprio niente. Le piombarono addosso disperazione e collera. Jim vide per la prima volta quella devastazione. Non ci volle molto perché Kate estendesse il suo disprezzo anche a Jim. Ci mancò poco che dicesse «gli uomini», come Jules una volta diceva «le donne». Jim capì meglio le crisi di Jules. Pensò «ognuno ha le sue crisi, diverse da quelle degli altri, e nessuno se ne rende conto. Quali sono le mie?» In momenti come quello, Kate pagava il prezzo della sua euforia, delle sue perpetue vacanze, della gioia che spargeva intorno a sé e lo faceva pagare anche agli altri. La cena fu un disastro. Il ritorno fu amaro. L'indomani Kate non uscì dalla sua stanza. Il giorno seguente il cielo era tornato azzurro. Ci fu in giardino una gara di tiro con un fucile a molla. Sparavano freccette di gomma contro palloncini lanciati in aria. Vinse Kate. Poi tirarono al bersaglio e Kate scoprì che Jim, quando prendeva la mira, faceva una smorfia strana. Andò a prendere uno specchio per fargliela vedere, ma lui non riusciva a farla e a guardarsi nello stesso tempo. Lei gliela fece rifare senza che sparasse, dicendogli «Mirate a me!». Le bambine miravano a Jim, imitando la sua smorfia. Jim insegnò loro a maneggiare un grande arco. La freccia dalla punta di rame saliva così in alto verso il sole che la si perdeva di vista. Avevano tutti paura che ricadesse in testa uno di loro e si tenevano per mano ad occhi chiusi aspettandola. Jim portò un boomerang di legno duro a forma di gomito. Dopo qualche tentativo, l'arma prese il vento, descrisse un cerchio e tornò a conficcarsi nel suolo erboso accanto a Lisbeth. Decisero di lasciar perdere. La vita era davvero una vacanza. Un giorno Martin fu lasciata in custodia a Jim in riva al grande stagno. Aveva 3 anni, era in pigiama, faceva caldo quel giorno. Lanciò a Jim uno sguardo come a dirgli «Tu mi capisci, eh?». Si tirò giù i calzoni ed entrò nell'acqua. Si fermò, si sfilò la giacca e la lanciò a Jim con un gesto che era tutto sua madre. Lui guardò quella bambina nuda che avanzava tranquilla a piccoli passi verso il centro dello stagno finché l'acqua non le arrivò all'altezza delle spalle. Per la prima volta Jim ebbe esplicitamente voglia di avere un figlio da Kate. Stava lavorando da solo nella stanza da pranzo. Un rumore alle sue spalle lo fece trasalire. Lisbeth, la sua allieva, aveva tirato col suo piccolo arco una freccia contro il vetro. Jim le spiegò con calma che avrebbe potuto rompere il vetro e che non bisognava tirare verso la finestra. Lei lo ascoltò con uno sguardo candido e sembrò convinta. Soltanto la freccia tornò 3 volte a colpire il vetro e Jim le diede 3 spiegazioni diverse. In quella arrivò Kate, guardò sua figlia sorridendo e le disse «Non si fa». E la cosa finì lì. Jim si stupì di non essere riuscito a farsi capire. Kate gli disse «Si è certamente inventata una bella storia e una buona ragione per tirare contro la finestra». Kate, la sua rotonda e maliziosa cugina Annie, la sua amica Rachel, la bruna alta del terzetto parigino, Jules e Jim, se ne andarono zaino in spalla a camminare nella foresta. Cenarono, poi fecero una lunga marcia sotto la luna. Cominciava a far freddo. Kate, la capofila, si fermò e accese un falò con l'aiuto degli altri. Le fiamme salirono alte. Kate disse «Ognuno sacrifichi al fuoco qualcosa di suo ed esprima un desiderio». E buttò nel fuoco un foulard di seta che bruciò nell'aria in un attimo. Jim, a parte il suo coltello, non aveva niente di altrettanto bello. Gettò nel fuoco un taccuino. Il desiderio che espresse riguardava Kate. Rachel, ostile a Jim, cercava di parlare da sola con Kate. Kate e sua cugina avevano deciso di scandalizzare Rachel. Si raccontarono a vicenda delle cose allucinanti e di moralità stravagante. Rachel si indignava sul serio. Jules non riusciva a trattenere il riso e lo mascherava fingendo di tossire. Aveva avuto mal di testa quella sera e aveva preso dell'aspirina, il che lo rendeva a tratti assente e lunare. Kate sfidò sua cugina a una lotta a palme aperte, clownesca e piena di prese impossibili che Rachel trovava eroiche. Poi Kate sfidò Jim. Rotolarono sull'erba sopra le foglie morte gridando «Ah!» fino a sfiorare il fuoco. Jim teneva Kate fra le braccia e non aveva nessuna fretta di interrompere il gioco. Rachel disse in seguito che forse quei due avevano fatto tutt'altro che lottare. Camminarono a lungo e si fermarono a notte fonda su un prato in riva a un lago che Kate conosceva. Lei si allontanò dagli altri e dopo un attimo si sentì il pluff del suo tuffo. Rimase in acqua abbastanza perché Jules cominciasse a preoccuparsi. Kate tradiva i suoi uomini con gli dei delle acque. Riaffiorò dal buio, deliziata e tremante. Sua cugina e Rachel la strofinarono con un asciugamano ruvido che avevano portato apposta. Il sole si levò. Comprarono dell'acquavite da un venditore ambulante. Una fruttivendola aprì il suo negozio. Jules andò a comprare della frutta per tutti. Stanco com'era e sotto l'effetto dell'aspirina, indicava la frutta alla donna muovendo solo l'indice con le braccia ferme lungo le cosce e girando la testa di qua di là per mostrare anche col naso. Nel frattempo monologava a mezza voce, rivolgendosi alla fruttivendola, a se stesso, al buon Dio, sempre sullo stesso tono. Gli altri seguivano la scena da dietro un cespuglio, cercando di soffocare le risa. Quando tornò carico di frutta, lo abbracciarono tutti, il che servì a scuoterlo un attimo. Nel bosco, all'ora della rugiada, incontrarono dei caprioli e tornarono allo chalet per dormire solo nel pomeriggio. Kate e Jim, Annie. Una sera tardi, Kate chiese a Jim di andarle a prendere in albergo un certo libro. Quando tornò, la casa dormiva. Kate lo accolse nella grande stanza da pranzo, rustica, odorosa di legno passato a cera. Aveva un pigiama bianco e un velo di cipria sul viso levigato. Lui l'aveva aspettata per tutta la giornata. Lei fu tra le sue braccia, sulle sue ginocchia, con una voce profonda. Fu il loro primo bacio, che durò tutto il resto della notte. Non parlavano, si avvicinavano. Lei gli si rivelava in tutto il suo splendore. Verso l'alba si raggiunsero. Sul viso di lei un'espressione di allegrezza e di curiosità incredibili. Quel contatto perfetto, il sorriso arcaico divenuto immenso, tutto lo radicava in lei. Si rialzò incatenato. Le altre donne non esistevano più per lui. La loro gioia pervase la casa. Matilda, al corrente di tutto e che temeva ancora Albert, disse «Finalmente!». Le bambine fiorirono senza sapere perché. Jules non ricordò a Jim il suo «Questa no, Jim». Implicitamente dava loro la sua benedizione. Fu spaventato nel vederli partire a una tale velocità. Disse a Jim «Attento, Jim! A lei e a voi!». «Certo», pensava Jim. «Attento! Ma a che cosa?». Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.